corazón es sentirte yo en cocina que ya prepara el mío café y por fin te di dormir per tirarti contro me. Sereno ricordare il primo giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia. E la volta che hai guidato tu entra il fosso a testa in giù. Per poi ridere di te.